sono segnalazioni reali, c'è un tema di rincari che è dovuto al ritorno del mercato delle locazioni brevi e poi c'è un tema di scarsità di offerta, sempre legato allo spostamento verso soluzioni a breve termine che la proprietà ormai ha intrapreso da qualche tempo e che non accenna a diminuire. Quindi dopo la pandemia, diciamo, sono ripresi gli affitti turistici? Sì, sono ripresi e sono ripresi gli effetti sul mercato di questo segmento, che ovviamente propone tariffe mediamente più alte, quindi porta a un'alterazione dei livelli di mercato. Il problema principale è una scarsità di offerta sul segmento tradizionale, che si è visto progressivamente eroso dall'esplosione degli affitti turistici. Anche se ovviamente sappiamo che le utenze poi le paga l'inquilino, però il caro bollette può essere un'altra ragione ad incidere? Sì, è un elemento che ovviamente influisce e che sposta verso segmenti più remunerativi, proprio perché si cerca di far fronte all'aumento dei costi e quindi si cerca un maggiore ritorno dei rendimenti da locazione. Quale impatto può avere questa situazione in una città universitaria come Bologna? Ma un impatto significativo, nel senso che si modifica la composizione sociale della città, significa andare verso un utilizzo mordi e fuggi e quindi uno snaturamento della proverbiale accoglienza di questa città e un'impossibilità di accesso al mercato della casa per chi la casa non se la può permettere dal punto di vista dell'acquisto, quindi un tema che impone una riflessione, non è un tema nuovo, purtroppo non si è fatto nulla, è un tema che è stato accantonato negli anni scorsi complice la pandemia che aveva comportato un'erosione della componente di affitto breve, quindi si era pensato che si potesse trovare un equilibrio anche per il segmento degli affitti tradizionali, in realtà così non è, anche non si è messo mano all'offerta di immobili in locazione, oggi se ne pagano le conseguenze. Le volevo chiedere, insomma, se è un problema che riguarda solo il capoluogo, mentre, come dire, nella città metropolitana ci sono ancora situazioni più sostenibili, oppure è un problema più diffuso? È un problema che si sta diffondendo, nel senso che parte dal comune capoluogo e poi si sposta verso i comuni di cintura, proprio perché si vanno a cercare condizioni di accessibilità al mercato, che significano disponibilità di alloggi e canoni sostenibili anche nei comuni limitrofi, proprio perché ormai nel comune capoluogo è molto difficile trovare soluzioni di questo tipo. Quindi è un problema che si sta allargando e su cui non si è intervenuti con tempismo e oggi si pagano le conseguenze di questa inerzia a livello amministrativo. Proprio su questo volevo farle una domanda: quali sarebbero le misure da mettere in campo? Ma bisogna innanzitutto capire che c'è bisogno di un ampliamento dell'offerta, perché con l'offerta esistente non si riesce a soddisfare la domanda, quindi bisogna trovare il modo di conciliare l'azzeramento del consumo di suolo con un aumento dell'offerta in locazione per il segmento degli affitti tradizionali. Il secondo tema è che si fa un gran parlare di forme di limitazione degli affitti brevi, in realtà ci sono stati molti annunci e pochi fatti, quindi bisogna trovare con i privati un equilibrio che consenta di reimmettere nel mercato della locazione tradizionale immobili che sono stati spostati sul segmento degli affitti brevi, perché così non si è in grado di dare una risposta alle fasce di popolazione che si vogliono salvaguardare, almeno nominalmente.